Bentornati a Radio Italy, io sono Rocco Carbonaro. In questa puntata Teresa Pisanò continua a raccontarsi per noi e ci svela altri aneddoti di Overland 15, il programma trasmesso da Rai 1 a luglio e capitanato da Beppe Filippo Tenti. Inoltre Teresa ci parlerà della sua vita di insegnante di italiano. Teresa è una donna coraggiosa e con una straordinaria passione per l'Oriente, ma gli odori, i sapori, i gusti del Mediterraneo le sono impressi nella sua mente, così come lo sono per ognuno di noi che vive all'estero. Dunque Teresa, volevo sapere se dopo questo programma così importante, se hai avuto delle proposte di lavoro in ambito televisivo. No, anche perché Beth mi ha parlato di qualcosa, ma vivendo io qui diventa un po' difficile, quindi aspettiamo un attimo e vediamo che cosa succede. Ci sono dei progetti, ma è tutto ancora in forze. Benissimo, poi ormai hai fatto sta bella avventura, ti puoi calmare un po'. Sì, infatti. E adesso infatti cosa fai a Taipei? Insegni, giusto? Sì, insegno in italiano, sì, in una scuola italiana. Questa è la cosa che più ti piace, se non sbaglio, ma sì, mi hai sempre sicuramente detto, io amo insegnare. Sì, esatto. Teresa, dimmi un po', durante la tua carriera, oltre ad insegnare, ti sei occupata di altro? Io ho fatto diversi lavori nel frattempo, ho lavorato delle aziende, ho fatto la guida turistica, ho fatto l'interprete, però devo dire che il lavoro che mi dà più soddisfazione in assoluto è l'insegnamento. Come sai, anche a me piace molto insegnare, però a volte lo trovo un po' ripetitivo perché facciamo sempre le stesse cose, ma la cosa positiva è che gli studenti sono diversi. E anche questo cambia, ogni classe è diversa e ogni esperienza è diversa. E poi la soddisfazione dai di vedere i progressi, perché anche noi abbiamo studiato le lingue e quindi la soddisfazione di cominciare con una classe che non sa dire neanche ciao e poi dopo poter chiacchierare è impagabile. Gli studenti ci hanno riempito la nostra vita. C'è uno studente, una studentessa che ti è rimasto o rimasta particolarmente impresso? Sì, ce n'è una, è una ragazza di Hainan, che mi è rimasta particolarmente impressa per il suo amore incondizionato verso la lingua italiana e la cultura italiana. Tant'è che dopo, quando mi sono trasferita a Milano, anche lei è andata a studiare a Milano design, come la maggior parte dei cinesi, e ha continuato a studiare privatamente con me l'italiano. E non ha mai, non si è mai assentata e non vedeva l'ora di venire a fare lezione. Quindi questo amore, questa passione mi hanno colpito tanto e... Sai, ed è stato veramente un piacere, più che un lavoro, è stato veramente un piacere mio insegnarle, continuare ad insegnare la lingua. Ti piace la musica italiana? Molto spesso a noi italiani non piace. Sì, mi piace la musica italiana, però devo dire che mi piace quella un po' vecchia. Ah, siamo simili anche in questo. Sì. Per esempio? Per esempio, ma da... Fred Buscaglione, per dirtene una. Vabbè, i classici De André, Gaber, Puccini. C'è una canzone di Buscaglione in particolare che ti piace? Così te la metto. Teresa, Teresa, non scherzare col fucile. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile, può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via. Disse, vieni a casa mia. Film, un film italiano. Un film film italiano, adesso non me ne vengono in mente molti italiani. Beh, uno sicuramente che mi è piaciuto e che ho visto da poco, anche se non è attuale, è Mine Vaganti di Özpetek. E tra l'altro è ambientato a Lecce e parla di una famiglia leccese che abita in una masseria bellissima, una famiglia benestante, e il padre però con le sue idee patriarcali, quindi anche maschiliste, e si trova ad avere due figli entrambi omosessuali, e quindi gira tutto intorno a questo ed è comico, ironico, ma molto divertente, mi è piaciuto. Vogliamo ricordare il titolo così lo vanno a cercare? Mine Vaganti. Benissimo. E dicevamo che tu hai anche un blog, che è su Blogspot, quindi penso che qui sia un pochino difficile da aprire. E se vogliono contattarti i miei studenti, o anche non sono tutti i miei studenti, come possono farlo? Via email, oppure se riescono ad andare su Facebook alla pagina Asia Mon Amour. Altrimenti dai la tua email, se non è troppo complicata. Sì, è abbastanza complicata. Comunque T di Torino e di Empoli, Molihua come il gelsomino in cinese, @yahoo.it. Benissimo. Teresa, ti ringrazio ancora per questa chiacchierata. Grazie a te, Rocco. Spero di avere un'altra occasione di poter parlare con te. Grazie. E se i nostri ascoltatori vogliono vedere quanto sei bella, possono andare a vedere le tue foto su Facebook. Ti chiami Teresa? Gentile. Come si pronuncia il tuo cognome? Non lo so pronunciare bene. Teresa Pisano Lukic. O io Lukic pure. Altrimenti sì. Non ti trovano, solo Teresa Pisano. No, Teresa Pisano Lukic. E come mai questo cognome? Lukic? Il cognome di mio marito. Ah, ma tuo marito non è italiano? No, non è italiano, è croato. Ah, è croato, non era shingianese, no? No. Un bacione, ciao! Buone Rocco, grazie, ciao. Buone grazie cose a Taipei, ciao. Ciao. Questa puntata dedicata a Teresa finisce così. Sicuramente ci saranno altre occasioni per averla con noi qui a Radio Italy. Intanto volevo ricordare che la mail che ho dato nel podcast precedente, cioè nella prima puntata di Teresa, è sbagliata. La mia mail, questa volta ve la ripeto esattamente, è 860089177@qq.com. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto per una nuova e ricca puntata di Radio Italia. Ciao a tutti da Rocco Carbonaro.